Storie, storielle, storiacce. Qualcuno lo chiamò il piccolo Romiti, il presidente dei generali Antoine Bernheim lo ribattezzò il pompiere perché chiamato a risolvere le emergenze, ma fuori dai salotti dell'alta finanza per la gente comune Sergio Cragnotti e soprattutto l'ex presidente della Lazio Calcio o il patron della Cirio del dissesto. E allora ripartiamo da qui, da quel buco di 150 milioni di euro in cui sono precipitati i risparmi di tanti italiani. Diciamo la cifra non è ben definita. Su un numero però non vi è dubbio che sono i 35.000 risparmiatori. Le è mai corso il pensiero a loro? Senza dubbio, è un rammarico grossissimo. Io ne sono consapevole. In 40 anni di vita professionale credo che noi non abbiamo mai cercato di ingannare qualcuno. Quello che è successo causato non da nostre ragioni, ma da ragioni di altri che in definitiva dovranno rispondere anche insieme a noi su questo inadempimento. Senza dubbio. Questo mi rattrista moltissimo. Sentendo le sue parole mi sono ritornate in mente le frasi di Callisto Tanzi in aula al processo a Milano. Sì, senza dubbio anche il cavalier Tanzi avrà le sue ragioni e le sue discolpe. Si è distrutto un mercato dei capitali che era una valvola di sicurezza per il mondo dell'impresa. Di questo io credo che qualcuno ne debba rispondere, perché in definitiva oggi non c'è più sicurezza di mercato nella sottoscrizione di obbligazioni per il mondo dell'impresa. Crack Cirio, crack Parmalat sono state due batoste per il mondo dei risparmiatori italiani. Lei oggi ad un risparmiatore se la sentirebbe di dire di credere ancora in questo tipo di investimento? Molte volte si fa la similitudine tra il crack Cirio, crack Parmalat. Io credo che queste sono due situazioni totalmente differenti. Per quanto riguarda il problema del mercato, io credo che il risparmiatore assolutamente, con le dovute garanzie, deve ancora credere al mercato stesso. Forse le similitudini nascono anche dal fatto che sia voi che la Parmalat in questo momento, o comunque all'interno dei vari processi, diciamo che puntate il dito contro le banche. Però le ragioni non credo che siano le stesse, perché noi in definitiva abbiamo venduto le nostre obbligazioni alle banche che le hanno sottoscritto, e credo che qui ci si trovi d'accordo anche con i periti dei pubblici ministeri, che sottolineano nelle loro relazioni che queste obbligazioni non potevano essere sottoscritte da altri investitori se non investitori istituzionali, e quindi banche, entità finanziarie, eccetera. E poi successivamente però le banche queste obbligazioni le hanno riversate sul mercato, e adesso qualcuno può anche domandare: ma tu non conoscevi che poi queste obbligazioni venivano rigirate al mercato? Bene, io non potevo entrare nel merito con quale altro strumento queste obbligazioni andavano al mercato, è qui la differenza. Quindi il nostro debitore principale non è stato mai il mercato, ma sono state le istituzioni bancarie. Parmalat credo che anch'esso abbia fatto degli investimenti dello stesso tipo, però in altre volte è andata direttamente al mercato, riversando praticamente le obbligazioni al mercato, perché faceva parte delle società leader praticamente del mercato industriale, aveva le caratteristiche per vendere le proprie obbligazioni al mercato, mentre Cirio non aveva, diciamo, queste finalità. Fatto sta che l'11 febbraio 2004 il GIP di Roma Andrea Vardaro firma l'arresto per Sergio Cragnotti, per il figlio Andrea e per il genero Filippo Fucile. È il dominus, scrive, di Cragnotti padre, il giudice nell'ordinanza, di tutte le operazioni distrattive o comunque dolose evidenziate. quei momenti veramente sono momenti terribili, di insicurezza e di annullamento, direi, della persona, sono istanti veramente terribili. Le è venuto in mente Gardini? Anche quello è stato un momento che io ho vissuto in prima persona, e poi ogni persona ha un modo di pensare, di comportarsi, di fare un po' una sintesi delle proprie cose, della propria vita, delle proprie emozioni. E anche dei rapporti che si hanno, che bilancio ha tratto? Quello che è accaduto non a una persona sprovveduta, che forse sedeva lì in quella sedia perché era comandato, ma in definitiva di una persona che ha saputo costruire imprese, che era capace di avere una progettualità, che poi evidentemente per errori di valutazione non è riuscito a portare a termine. Lei ha raccontato che dei vari politici o anche dei vari personaggi pubblici, l'unico che in qualche modo le ha attestato una solidarietà è stato Rutelli. Sì, adesso in quei momenti evidentemente fa anche piacere ricevere qualche mano tesa. Certamente se c'è qualcuno, come in quel caso c'è stata una pianta ricevuta da un grande laziale come Rutelli, ecco lì è un segnale tangibile di emozione. Chi l'ha delusa invece di più? Mi ha deluso il sistema, direi, il sistema che deve accompagnare l'impresa, che non riesce mai a costruire. E delle persone con cui aveva rapporti molto stretti e da cui si sarebbe aspettato anche soltanto un gesto? In quei momenti credo ci si sente soli, è un po' nello spirito umano di fuggire per non essere coinvolto, e questo è il mondo. E dei furbetti del quartierino cosa pensa il protagonista di un altro scandalo finanziario? Quello che in definitiva il mondo dell'impresa deve capire è che è importante creare nuove imprese, creare nuova produzione, nuova produttività. Io credo che questo è fondamentale, non creare quella ricchezza cartacea vulnerabile che poi da un momento all'altro può assolutamente scomparire. Che idea si è fatto anche del terremoto che c'è stato dopo queste inchieste? In effetti poi si parla del presidente di Banca d'Italia, il dottor Fazio, eccetera, che io ho detto molte volte che in definitiva il fenomeno delle concentrazioni era un problema necessario e indispensabile per accompagnare la crescita del paese anche nel mondo dell'industria. E evidentemente in quel momento si è sbagliato nella forma, forse si è stati un po' superficiali credendo che tutto e tutti era possibile fare qualcosa, che poi evidentemente è crollata all'improvviso. L'hanno spaventata le pesanti condanne che negli Stati Uniti sono state emesse per la vicenda Enron? Il problema Cirio è un problema di talmente dimensioni così ridotte, e anche il lavoro dei commissari straordinari ha dimostrato che in definitiva nella liquidazione degli asset, quindi fatti in un sistema fallimentare, hanno creato liquidità per circa 700 milioni di euro, e se si pensa che il totale dei bond erano 1.100.000. Quindi credo che se il progetto fosse portato a compimento, evidentemente tutto quello che è successo oggi saremmo in una situazione totalmente diversa. Mette insieme i suoi pensieri Sergio Cragnotti, mostra serenità, ma sul viso scavato restano i segni dei recenti guai giudiziari del ragazzo di un tempo che arrivò a vendere la standa a Silvio Berlusconi. In quel momento io ero in Montedison stava facendo una ristrutturazione delle sue partecipazioni azionarie, tra cui c'era la standa, in quanto non era un po' il core business della Montedison. In quel momento io andai sul mercato e mi resi conto un po' del valore, e questa era un po' la superficialità dell'Italia che non riusciva a capire come andava la grande distribuzione rispetto alla distribuzione tradizionale, e quindi quel valore fu fissato praticamente da Auchan cosa che invece in quel momento Gardini aveva promesso a Berlusconi di vendergli praticamente questo ramo di attività, e quindi il Cavaliere pagò un po' il prezzo che il mercato internazionale offriva in quel momento. Lei era tra i manager anche più pagati. Gardini valorizzò la mia professionalità nel fatto di ristrutturare un po' le imprese, di cederle al mercato, e quindi si crearono praticamente delle grandi plusvalenze per il gruppo Montedison, ne ebbe riflesso un po' anche il mio salario. Ottimi rapporti con Gardini, non tanto buoni con Cuccia. Avevo già presieduto varie riunioni con il dottor Cuccia, con Gardini, eccetera. Si parlava sempre del gruppo Ferrucci. Siccome Gardini valorizzava sempre la mia persona nei confronti di Cuccia, dicendo che Regnotti è bravissimo. E così in quel momento Cuccia mi definì, sì, fa tucchiera, cioè sa fa tutto. Lei nel suo libro racconta anche di un altro incontro, ma siamo nell'autunno del 2002, un incontro con Livolsi. In un certo momento le banche chiesero il passo indietro nella gestione del gruppo, e quindi fu necessario chiamare un advisor, fu fatto il nome di Livolsi, che poi in effetti non riuscì a fare questo piano di ristrutturazione. Non lo sapevo che era uno stretto collaboratore di Berlusconi. E invece i suoi rapporti con Berlusconi? Sempre cordiali, poi una cosa ci attirava entrambi, era il calcio, e quindi quando in quelle poche volte ho incontrato il Cavaliere si parlava di calcio. Calcio e gli affari, come il famoso episodio della cessione di Nedved. Nedved era un giocatore che interessava molto alla Juventus, e siccome gli acquisti anche l'avvocato Agnelli li considerava sempre anche lui in prima persona, quindi fu lui in definitiva a chiamarmi e a chiedere un po' il trasferimento di Nedved. Ed era possibile dire di no all'avvocato? L'avvocato era di una grande simpatia e di un modo di presentarsi che veramente era quasi impossibile dire di no, no? Tanto per fare una battuta mi disse: Cragnotti, ma lei ha vinto uno scudetto, noi dobbiamo vincere adesso. Cos'è che, alla luce di tutto quello che è successo, come riflessione diciamo postuma, lei non farebbe? Non farei l'imprenditore in Italia, continuerei a farlo all'estero, dove forse è più facile far accettare ad altri la propria progettualità.